La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 27 giugno ancora ovviamente tocca riflettere su quello che avviene in Europa, non solo sul Brexit, anche se i mercati, come avete visto stamattina, o probabilmente molti di voi sapranno se ci seguono, hanno tentato una riaccelerata, ed resto Nikkei in questo senso era andato alla chiusura giapponese, poi è tornato il segno meno con le banche giù. E quindi adesso vedremo quale sarà la chiusura, ma insomma, il segno è quello di una persistente debolezza, ma e il segno è anche quello di una presa di tempo dopo il voto britannico. Ecco, una presa di tempo perché, come evidente, la politica britannica non aveva un piano concreto su come affrontare il post Brexit. Adesso prende tempo e vedremo come andrà oggi il vertice a tre, quello Merkel, Hollande, Renzi, visto che siamo entrati per la prima volta, non è più una diarchia franco-tedesca ma una troica. Però nel frattempo ieri hanno votato gli spagnoli, allora è il caso di approfondire il voto spagnolo di ieri. È un voto con una sorpresa, sì, è una sorpresina in realtà, perché secondo me poi i giornali molto hanno enfatizzato ancora una volta quello che si aspettavano tutti, come sapete si aspettavano il sorpasso da parte di Podemos Unidos, la somma di Podemos e Izquierda Unida ai danni del Partito Socialista di Sanchez, non è avvenuta, e quindi i giornali oggi hanno fatto questi grandi titoli sulla delusione, la sconfitta di Pablo, titolo Repubblica, l'ex indignato che sognava i palazzi del potere. Detto questo, molti pensavano che ci fosse una caduta ulteriore del Partito Popolare di Rajoy, invece il Partito Popolare ha preso quasi più di 4 punti in più rispetto alle elezioni del dicembre 2015. Ci faremo spiegare dagli ospiti che cosa è successo. La realtà è che a questo punto in realtà si tratta quasi di un voto fotocopia, per così dire, cioè nessuno ha la maggioranza per governare i 175 voti, e bisogna capire se a questo punto la Spagna, poiché non credo proprio che possa, vedremo, ascolteremo, ma possa andare a un terzo appuntamento elettorale, deve decidersi cioè fare una grande coalizione tra i popolari di Rajoy, che comunque hanno il segno più nelle elezioni, a differenza sia del Partito Socialista sia del Podemos sia di Ciudadanos non ha preso molti voti in meno, meno di un punto percentuale in meno, è comunque intorno al 13%, ma appunto dovrebbe aver preso 8 seggi in meno su 40. Però il problema è che tipo di alleanza fare, un'alleanza tra socialisti e popolari, altrimenti qual è l'alternativa? Allora tentiamo di capire quanto su questo voto ha pesato la paura di andare in una direzione tipo Brexit, cioè di dare davvero poi il potere, il voto a chi aveva fatto anche della ridiscussione del debito pubblico spagnolo uno dei suoi punti, cioè appunto Podemos. Quanto invece è, per così dire, autonomo e indipendente dal fenomeno britannico, e quali sono le caratteristiche di questa focalizzazione a 4 oramai cristallizzata, e che cosa possiamo aspettarci? In realtà alcuni hanno titolato "Vi gode la Merkel", altri invece sperano comunque in uno sviluppo diverso, e bisogna capire qual è. Allora, per parlare e spiegarci che cosa è successo, abbiamo un giornalista del Paese, Jorge Mari Rodriga, ho detto bene? Hai detto benissimo. Grazie di essere con noi. Anton Luca Cuoco, un manager italiano che opera in Spagna, grazie Anton Luca di essere con noi. Non c'è Anton Luca? Non c'è. Benissimo, allora intanto andiamo con Jorge. Allora, deluso oppure le aspettative sono più o meno come... Perché in Italia sembrava che dovesse andare diversamente questo voto. Abbiamo sbagliato a capire noi? No, io prima direi che come giornalista non posso essere deluso, perché avremo delle notizie senza sosta. Secondo, io vorrei sottolineare che prima di tutto è stato un grandissimo fallimento ancora dei sondaggi. Certo. I sondaggi dei mesi anteriori e i sondaggi delle settimane scorse dicevano, puntavano su un altro risultato che alla fine non è stato. Forse per parecchie circostanze, una delle quali senza dubbio, come tu hai citato prima, è stato il Brexit, ma pure c'è stato un altro fattore che può avere una certa somiglianza con quello che sta per capitare in Italia. Non dobbiamo dimenticare che il comune di Madrid è nelle mani di Podemos. Certo. Dopo un anno di gestione molto polemica, perché il sindaco di Madrid è una persona diciamo molto popolare, ma allo stesso tempo molto polemica, con le misure che hanno avuto una grande controversia, forse una volta che Podemos diciamo è stato governando un piccolo paese, si è visto la maniera di governare, il voto è andato, si dice in spagnolo, non so se si usa la stessa espressione in italiano, il voto della paura. Mm. Un voto, diciamo, cioè messi alla prova del governo a Madrid non sono piaciuti troppo, insomma. Ti posso dire che i risultati a Madrid, il Partito Popolare, cioè la destra, ha ricapitato il 40% dei voti. Ha vinto in tutti i distretti di Madrid tranne tre. Quindi è stata una grandissima sconfitta di Podemos a Madrid. Madrid è lo specchio di quello che capita in altre parti della Spagna. E invece la partita a sinistra a questo punto è influenzata da questa stessa cosa, cioè dai primi risultati, i primi effetti del governo in grandi città da parte dei Podemos. È per questo che Sanchez alla fine è andato meglio di tutti quanti, quanto tutti si aspettassero? Sì, perché c'era anche il pensiero di che una Spagna senza una socialdemocrazia forte sarebbe una situazione molto difficile, e quindi bisognava salvare il Partito Socialista. Il Partito Socialista nella storia recente della Spagna è stato un partito molto importante, è stato l'autore della modernizzazione della Spagna, è stato l'autore del processo di integrazione nell'Europa. Non poteva finire qui, si parlava del PASOK, della PASOKizzazione del Partito Socialista Spagnolo, e finalmente quello non è capitato. È una buona notizia senza dubbio per il Partito Socialista, ma pure per il Partito Popolare. Perché? Perché nel caso che ci sia un governo del Partito Popolare, il capo dell'opposizione sarà il rappresentante del Partito Socialista, non quello di Podemos, non quello della sinistra populista. Ma secondo te esiste la possibilità di una sia pur risicata maggioranza incentrata sugli eletti del Partito Popolare? Come si fa a raggiungere il numero minimo necessario? È possibile, perché il sistema di elezione per essere eletto presidente, qui si chiama il presidente del consiglio, si chiama presidente del governo, non bisogna vincere con la maggioranza assoluta nella seconda votazione. Basta. Quindi può essere un governo di minoranza, per così dire. Sì, può essere un governo di minoranza, soprattutto se l'alternativa è andare ancora a elezioni nel prossimo novembre, perché la cittadinanza è un po' stanca. Beh, di tutto questo. Ci credo. Ma a quel punto, secondo te, l'opposizione che sarebbe in grado di garantire Sanchez col Partito Socialista, perché non credo che Podemos farebbe un'opposizione, per così dire, contrattando su alcuni punti, costruttiva, insomma, non voglio dire di convergenza, resti, non dai il voto, però cosa diversa è di convergenza per impedire di mettere la Spagna di nuovo nel fuoco magari della speculazione dei mercati. Io credo che Podemos non la darebbe, ma secondo te Sanchez e il Partito Socialista è in grado di darla? Sì, sicuramente sì, per questo che ti dicevo che è una sinistra, il Partito Socialista è una sinistra moderna europea e che non vuole fare il sistema crollare. Non è questo discorso politico dire bisogna rifare tutto da capo, non è quello. Certamente la Spagna ha bisogno di una importante riforma costituzionale, per la quale bisogna avere l'accordo di tutte le forze politiche, ma allo stesso tempo ha bisogno di una opposizione che sia, diciamo, che intenda di politica, del gioco politico, di come si balla con questa musica. Ancora devo dire un'altra cosa, questo non vuol dire che il Partito Socialista sarà l'opposizione, perché una delle possibilità che non è chiusa, perché in questo momento diciamo si fanno tutte le possibili combinazioni, ipotesi, sì. Sarebbe una grande alleanza alla tedesca. Cioè ufficialmente col Partito Socialista e il Partito Popolare, che dicono di fronte a questo responso abbiamo la responsabilità nazionale, troviamo un accordo. Cioè, sì, per fare un governo invece a 4 anni, farlo soltanto a 2, riformare la Costituzione, anche il processo di riforma costituzionale, per farlo quello bisogna andare a nuove elezioni, quindi si fa un governo di unità nazionale 2 anni, si fanno queste grandi riforme, si anda ancora al voto e una volta con i risultati si fa un governo nuovo, sia quello che sia. A questo processo Ciudadanos di Rivera parteciperebbero oppure no, secondo te? Sì, secondo me sì, perché è un partito di centro liberale, loro hanno assunto il ruolo di si dice in italiano aglio della bilancia. L'ago della bilancia, sì, l'ago della bilancia. Allora, i suoi votanti capiscono benissimo che possono diciamo arrivare agli accordi con il Partito Socialista, con il Partito Popolare o con tutti e due. Ma per un accordo di questo tipo è ipotizzabile che i leader dovrebbero fare un passo indietro a cominciare da Rajoy oppure no? Rajoy in questo momento no, perché senza dubbio lui è il grande vincitore delle elezioni, e non soltanto riguardando i partiti, i contrincanti, ma pure dentro del proprio Partito Popolare. Dopo le elezioni dello scorso dicembre c'erano delle voci, sottovoci. Molti gli dicevano sei finito, fatti da parte. Sì, sei finito, fatti a parte, tu sei un ostacolo e tutto questo, ma adesso è assolutamente impossibile. Quindi, infatti, uno dei problemi che ha il leader di Ciudadanos, Albert Rivera, è che durante la campagna elettorale ha ripetuto l'idea di che Rajoy deve andarsene. E adesso quello non è più possibile. Certo. Ma è una cosa un po' strana, lo sai, perché se hanno ripetuto le elezioni, i leader che entravano nelle elezioni più deboli, cioè Pedro Sanchez o Mariano Rajoy, sono usciti forti. I più forti. Senti, è un po' come il conclave. Uno che entra di papa e non fa il papa. Esattamente. I cardinali escono papa. Anche se con Bergoglio non è andata così, perché doveva andare già eletto al conclave che poi elesse Benedetto XVI. Poi Benedetto XVI ha abbreviato la sua cattedra petrina ed eccoci che siamo con Bergoglio. Ma detto questo, quello che mi interessa è una cosa: la reazione di Iglesias, che gode di un fortissimo sostegno alla stampa mediatica, è un fenomeno mediatico come tutti quelli, sembravano che anche Tsipras fosse così, poi Tsipras ha ragionato, per così dire. Come reagirà Podemos? Aspetterà all'angolo coi fucili spianati per 2 anni il processo costituzionale dicendo rimanendo io unico fuori poi tanto i voti vengono a me, oppure avrà un atteggiamento diverso? Questa è una buona domanda, perché il problema dei partiti, diciamo con un discorso più o meno populista, è che quando le cose vanno bene tutto è bello. Il problema è come fanno fronte alle difficoltà. La direzione di Podemos prima della elezione era un po', diciamo, divisa per questa alleanza con i comunisti di Izquierda Unida. C'erano delle obiezioni, però. Sì, certo. Se uno va ai risultati si vede che non è stato il sorpasso ai socialisti, e secondo, il numero dei seggi alla Camera non è cresciuto, hanno lo stesso numero che avevano prima Podemos da una parte e i comunisti dall'altra, avevano 72 seggi e adesso hanno 72 seggi. Sì, è uguale. Quindi, non c'è stata alcuna aggiunta, certo. Questo che vuol dire? Che ci sono stati tanti militanti o votanti comunisti che non hanno votato questa alleanza con la sinistra, diciamo, nuova, perché considerano che questa sinistra nuova non risponde in realtà a un atteggiamento serio della politica. Questo è un segnale, per così dire, su cui riflettere. C'è anche l'altro segnale che ci hai detto all'inizio, quello: attenti a come votano, a come governeranno i sindaci di 5 Stelle, perché a Madrid l'effetto c'è ed è un effetto di delusione sul sindaco, sulla sindaca, anzi, di Madrid. Io so che adesso hai da fare, quindi noi ti ringraziamo intanto per questo quarto d'ora illuminante che ci hai dato, caro Jorge. Buon lavoro e vediamo come sarà lo sviluppo poi per la governabilità spagnola. Ma intanto, insomma, i Brexit non c'è, cioè la Spagna non ha votato per l'azzardo, ma ha votato per la responsabilità. Torniamo dopo le informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati per continuare questa riflessione su che cosa aggiunge e che cosa ci ha sorpreso, che cosa proietta sul futuro dell'Europa oltre che della Spagna. Il voto ieri, il secondo voto dopo dicembre, visto che era stato impossibile formare un governo in Spagna, è un voto in realtà quasi fotocopia, con la differenza che però il Partito Popolare, che molti davano in arretramento, sconfitta eccetera, di fronte alle incertezze ha di nuovo guadagnato voti. Mariano Rajoy è alla sua testa, è da lui che comincerà la consultazione. Abbiamo sentito prima un collega del Paese che ci diceva: a questo punto l'alternativa secca è o maggioranza di unità nazionale con i socialisti non superati da Podemos, che fanno l'accordo con Rajoy, che è il vero vincitore, oppure al più comunque un governo in minoranza, che è possibile secondo la Costituzione dopo il secondo voto, al secondo voto in Parlamento, ma però con un atteggiamento costruttivo per favorire un processo di riforma costituzionale che dura almeno 2 anni e poi tornare a votare, quindi con un atteggiamento di costruttività che a quel punto unirebbe il Partito Socialista e Ciudadanos di Rivera nei confronti della leadership del Partito Popolare. Allora, avevo chiamato prima Antoluca Cuoco, manager italiano che opera in Spagna, e poi la linea non era pronta, ed eccoci con noi. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Antoluca. Buon pomeriggio, ben trovato, buon pomeriggio a tutti, vi ho ascoltati. Sì, ma sorpreso per l'esito, visto che eri in Spagna in questi ultimi giorni di campagna elettorale? Sì, io direi due numeri e tre telegrammi. Il dato per cui Rajoy è il ganador, è il vincitore, è chiaro, ha guadagnato circa 700.000 voti. Unidos Podemos invece oltre 1 milione di voti in meno, persi. Quindi voglio dire, il commento numero uno dal mio punto di vista è che non è stato questa volta un voto col dito medio. Da Podemos siamo a Podevamos. Il voto col dito medio, come dire, tradotto con le dita, vaffa, ecco, più o meno. Esatto, noi abbiamo visto negli ultimi tempi in diversi paesi europei occidentali un voto di grande baffa. E questa volta in Spagna, dove le condizioni con Podemos, che comunque era dato crescente, sembravano esserci, in realtà il voto è stato pro stabilità. Magari qualcuno ha guardato cosa accadeva nei giorni dopo il possibile Brexit, che non si sa cosa dovrebbe portare i dati sui mercati. Magari qualcuno ha avuto paura. Io posso dire che i miei colleghi a Barcellona avevano questa situazione, vivevano questo timore, cosa succede, le aziende cosa sceglieranno di fare. Da questo punto di vista, il terzo commento è che però in Catalogna continua a essere in testa Podemos. Io ho guardato la mappa rispetto ai mesi scorsi, adesso è tutta azzurra, quindi praticamente il Partito Popolare ha riguadagnato l'Andalusia e l'Extremadura, nonostante una serie di vicende, di scandali, ad esempio Valencia, tengono testa, e soltanto nei Paesi Bassi e in Catalogna continua a essere, come dire, viola, che è il colore ascrivibile a quest'area di Podemos. Però alla fine le persone hanno vissuto un effetto Brexit, e io ho notato che questo voto pro stabilità è anche figlio di un po' di timore. Questo spiega anche un po' di voti che si sono passati da Ciudadanos al Partito Popolare, perché il tema del voto utile è stato molto forte ed usato da Rajoy. E poi voglio dire una cosa interessante che un amico avvocato di Barcellona mi ha detto: viviamo in una Spagna sempre più italianizzata, non siamo abituati, non abbiamo la vostra storia e tradizione. Dove per italianizzata sbaglio o non mi pare un'accezione positiva dell'aggettivo? Li ha messi in crisi, la situazione di confusione, di dubbio, di poca chiarezza è una cosa che loro vivono ancora come difficile da metabolizzare. Ma la battuta simpatica che mi è stata fatta, questa è una persona che nella vita fa l'avvocato, lavora con le aziende nel settore della logistica internazionali, mi dice: noi non abbiamo la vostra storia, qui non c'è mai stato un Andreotti, noi non sappiamo come navigare nella tempesta. E mi sembrava un commento simpatico, però a fronte di io quasi li invidierei che non abbiano avuto un Andreotti. Lo so, infatti la mia risposta la vita aveva un tono simile al tuo commento, capisco che loro si trovano un po' confusi. Questa confusione unita all'effetto paura, oddio cosa succede, io immagino possa aver spiegato questo voto, chiamiamolo pro stabilità. Certo, insomma, se uno pensa agli aspetti istituzionali, è vero come anche lì, quello che poi ci dimentichiamo tutti in questo paese, in Italia, dove si voterà chissà quando, adesso dovrebbe slittare, perché non pare che non sia più così urgente farci fare il referendum sulla Costituzione, però dovranno farlo entro dicembre. Però questo per dire sulla legge elettorale: la legge elettorale spagnola andava benissimo per un sistema che in realtà era nella questione della democrazia post-franchismo un sistema bipolare, e quindi si poteva consentire sentire il proporzionale corretto in collegi come quelli spagnoli, che è lì tutto il podio maggioritario che c'è, perché comunque dava la stabilità. Adesso con l'irruzione di forze nuove, come si vede, non dà la governabilità, e quindi dovrebbero rifletterci molto bene su questa legge elettorale. Non dà la governabilità, infatti all'ordine del giorno c'è proprio la riforma che possa gestire questa complessità nuova. Gli altri due dati che mi sembrano interessanti sono, e ce n'è uno che a me sembra ancora un paradosso, il PIL in Spagna è cresciuto con numeri che per esempio noi in Italia ci sogniamo, nonostante ciò il Partito Popolare ha avuto difficoltà, perché come sappiamo diciamoli i numeri, perché stiamo parlando di oltre il 3%. Bravo, esatto, un incremento del 3% che a noi sembrerebbe stellare, di avere Superman al governo. E però dall'altra parte, e questo spiega, me lo ripetono sempre colleghi, amici, sia a Barcellona che a Madrid, il dato della disoccupazione che è intorno al 20%, perché c'è in particolare un amico che era anche candidato a Madrid, mi diceva: guarda quanti sono i disoccupati e guarda i voti tipo Demos. Quello è il primo motivo per spiegare quel tipo di voto. E adesso evidentemente una serie di persone, un'area un po' più orientata all'Europa, alla competizione, a innescare sentieri di crescita, adesso può giocare un po' meglio la sua partita. Diciamo che fino a qualche tempo fa era un po' sulla difensiva. Però l'altro elemento fondamentale è quello della comunicazione. Come in Spagna alcuni leader come Rajoy, ma anche Rivera, hanno spiegato, martellando in maniera garbata a volte in maniera un po' più pesante, sui pericoli che stavano correndo. L'evento inglese ha aiutato in questo senso. E c'è un commento che mi sembra efficace sempre, a prescindere dalla Spagna ma anche negli altri paesi: la malattia populista non si cura in 24 ore, ma serve soltanto far crescere un paese, offrire opportunità. E quello è il modo con cui si asciuga l'acqua del vaffa e si sceglie di crescere. Sì, però io però devo dirti, Luca, con questo criterio allora uno aspetta che torna il ciclo positivo dell'economia, e allora io non capisco. Lavora per farlo, ma il problema è questo: è dei leader politici. Io su questo sto litigando con un mucchio di amici da che c'è stato Brexit, perché la questione è: se ci rassegniamo che c'è una specie di sovrapposta curva a quel ciclo, di fronte a una crisi così radicale, aperta dei disoccupati eccetera eccetera, ecco che c'è la protesta. E allora cosa vuoi fare? Bisogna aspettare i tempi migliori e però contenere i danni. Oscar, sono votati, sono ma un'espressione. Ho capito, ma sono votati, ma è anche vero, nel nostro paese la destra è bloccata da 20 anni, su, sono votati, hanno perso ma non vanno a casa, questo è quello che voglio dire. Allora il problema è che se no, ci vogliono leader capaci di da fare diga a quello che si chiama ormai generalmente il populismo, che per me non è interpretare il malessere della gente, perché quello è sacrosanto. Il problema è che ci vogliono politici capaci di parlare ai cuori della gente che sta male, che ha perso un mucchio di reddito, farlo con altrettanta efficacia, con soluzioni opposte rispetto a quelli che dice: abbattiamo il debito, usciamo dall'euro, la colpa è dei tedeschi, i tedeschi ci devono pagare gli NPL delle banche, che è la posizione che l'Italia sta portando oggi nel vertice 3 europeo. Noi critichiamo gli anti-europeisti, ma chiediamo un pacco di deroghe alle regole europee, alte come l'Empire State Building. A me questa roba qui non piace, sono minoranza, urlo apposta, ma perché non ci sono leader politici che in realtà incarnino queste robe qua. E allora l'alternativa diventa tra scassare le regole europee in nome della spesa pubblica, perché questo è quello che gli italiani, il governo italiano sognava che avvenisse in Spagna, il governo italiano sognava nella vittoria di Pablo Iglesias, perché finalmente era più forte il coso antitedesco. Invece mancano i leader capaci di dare logica a questa roba qua. E per esempio Alberto Rivera, io gli faccio i miei auguri in Spagna, vedremo come crescerà in questa stagione di riforme, perché a me sembrava un prototipo di leader di quel tipo. Che dici? No, ma ti confermo, io prima provavo a porre l'enfasi sul tema della comunicazione, proprio per evocare quanto un leader è capace di emozionare, di dare una visione, di descrivere una possibilità che oggi non c'è, e quindi raccolgo il vaffa, però domani potrebbe esserci. In questo senso, una cosa interessante, quando ho incontrato un po' di persone anche del circuito di Ciudadanos, devo dire che oggettivamente esprimevano una classe orientata all'imprenditorialità, una classe anche molto consapevole del tema europeo. Io mi ricordo che un anno fa, quando incontravo loro a cena, mi dicevano: qua il tema europeo è all'ordine del giorno, non capiamo perché non viene ben spiegato e dibattuto, e qualcuno lo vuole derubricare a dettaglio Germania no, cattiva, no, Germania buona, ma esatto, che questo, cioè, il tema è quello di leader al di sopra delle proprie possibilità, chiedendo ad altri di pagare, di dare gambe a un'Europa che funziona. In Italia devono essere capaci di dire: signori, vi raccontano frottole sulle banche perché non vogliono coprire la commissione di manager opachi e banchieri amici degli amici, perché questo è il punto. Allora, quella roba lì non è populismo, è un'altra cosa, però naturalmente questi manager li possiamo solo sognare. Nel frattempo auguri agli spagnoli che hanno votato in maniera riflessiva, e vedremo che cosa succede oggi, nei prossimi giorni, ancora per Brexit. Continuate con Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 insieme a Alessandro Milano. Attenti, noi due.